Ho bisogno di benzina per partire mentre dormi senza accorgerti di me. Scendi dai tuoi tacchi alti, guarda il mondo senza accorgerti di me. Perché in fondo ai miei occhi stanchi desiderio di resistere non c'è. Voglio ancora respirare, divertirmi a coltivare fantasie sulla curva dei tuoi fianchi. Desiderio di resistere dov'è? E l'idea di averti ancora sale piano, la motivazione vola in alto come un aeroplano, ma il desiderio di resistere non c'è. Ho bisogno di benzina per partire mentre dormi senza accorgerti di me. Ho bisogno di una spina per accendermi di nuovo quando nasce il sole, per ricordarmi ancora di bellissime parole e tenere in testa l'unico grandissimo pensiero di dimenticarmi subito di te. Uno spazio libero, un foglio bianco come l'anima, dove riscrivere una storia più simpatica. Ma io, ho bisogno di benzina per partire mentre dormi senza accorgerti di me. Ho bisogno di una spina per accendermi di nuovo quando nasce il sole, per ricordarmi ancora di bellissime parole e tenere in testa l'unico grandissimo pensiero di dimenticarmi subito di te. Ma io, ho bisogno di benzina per partire mentre dormi senza accorgerti di me. Ho bisogno di una spina per accendermi di nuovo quando nasce il sole, per ricordarmi ancora di bellissime parole.